capito, almeno quello è ricavato. Certo. A me mi volevano in corsi l'ingegnere dove che comandava lì, no? Ed era anche nella scuola guida del Pulma, l'autista, cioè l'istruttore gli aveva detto ingegnere, io faccio entrare, perché ha visto come guidavo io, no? L'istruttore, era di tu, a vedere se mi buddiava, e non c'è venuto arrivare, un preso, ma era giusto. Andiamo a loro a che sistemare già. Sì, infatti, poi lì facevo dei suoi turni, lì al parcheggio facevo i turni, era sempre dipendente della ATP, per cui non ho, però adesso è in pensione da poco, perché vabbè, adesso è già un paio d'anni che non stava più lavorando alla ATP perché ha avuto degli interventi medici, uno al femore, uno al braccio, e dunque adesso devo avere all'altro braccio anche. Però il suo lavoro specifico, lui è nato verniciatore di macchine, che ancora oggi lo sta facendo, almeno fin quando non le danno la requisazione, perché ha fatto la domanda della pensione, che gli è stata già approvata, gliel'hanno già approvata, ma ancora non gliel'hanno liquidata, sicché è questione di poco tempo, di giorni, forse settimane o un mese, non lo so. Sì, infatti. Invece mio cugino era riuscito a entrare fisso, pompiere, capito? Evidentemente, sicuramente l'avrà conosciuto, dato che l'ha detto. Non lo so, lui, tutti quelli che quando lavorava lui, tutti li conosceva, è ovvio, li conosceva, fra di loro si conoscono. Ma per dire, questo è mio fratello, il più piccolo di casa, di 18 anni di poco di me. Quando è nato lui avevo già 18 anni, li puoi immaginare. Era già praticamente maggiorenne. Figurati. Fanno rimani soli, mire. Ma potevi mamma Giulia, si trovi già 18 anni, tutti i cini giovanni, no? Che rimaniamo soli. Infatti, noi abbiamo rimasto un bel buon, io mi sono sposato che ne avevo 29, dite, anche se i 18 anni che avevo io non erano la maggiorenne in realtà, perché allora in quel periodo si diventava maggiorenne a 21, oggi è che diventano a 18 anni e hanno il coraggio di parlare di portarli anche a 16 anni, ma io l'avrei fatto di maggiorenne da 10 anni oggi, ma che oggi con tutto questo che combinano i giovani di oggi, tutta una banda di delinquenti, la maggior parte di questi giovani di oggi, fannulloni e soprattutto delinquenti che vanno a fare rapine, vanno a fare di tutto, una vergogna, io avevo tanta fiducia nei giovani, ma mi sto ricredendo, guarda, veramente. Infatti in America 16 anni sei maggiorenne, ma ragazzi, capito? A 16 anni sei maggiorenne in America, anche in Inghilterra, qua invece Nisba, qua prima era 21 e poi l'hanno abbassato a 18. Infatti adesso ho visto, ultimamente avevano fatto la legge, non so se è entrata già in vigore, che anche a 12 anni uno è imputabile d'arresto. Perché è giusto, perché intanto che differenza va se uno va a 18 anni o magari a 12, se uno va con una pistola e ammazza un coetaneo, tanto per fare un esempio, o addirittura ammazza una persona adulta, che differenza fa? Sempre di omicidio si tratterebbe, no? E dunque è giusto che ci siano le pene severe, ma speriamo che le mettano in pratica e che li facciano scontare a questi futuri delinquenti. Ma qua siamo in Italia, c'è Maragarlona, Burunove, mamma mia, ma non hai visto tutto il macello che succede? Piazza Pace è successa un'altra guerra, è successa in Israele, non hai visto cosa ne va? Sì, in Israele nasce una guerra, dopo smettono e dopo un po' di tempo ritornano con un'altra, magari con un'altra nazione, magari dai, ci sono una banda di selvaggi, sono tutti quanti questi paesi così, non è possibile. possibile, di paese democratico veramente ce n'è solo qualcuno nel mondo, ma tutti gli altri sono una banda di selvaggi. Non è possibile che il potere politico debba essere così tanto odioso da fare del male alle loro popolazioni. Non è possibile, perché è il potere politico che fa nascere le guerre. Ma chi ci sono i palestinesi? E sempre è di solito i terroristi, i musulmani, ma la sorte che c'è. Gli islamici, tutti gli saienti, sì, che poi che sono convinti che rinascono quando si fanno esplodere gli saienti, che vanno gli attentati, eccetera, convinti sono. Io non so chi è che gli ha inculcato nella mente queste idee così assurde, veramente. Non lo so, uno si riempie di esplosivi, va in mezzo alla gente per fare del male, così e lui, secondo loro rivivano chissà cosa, diventano eroi. Ma che nanni, che tu vuoi ricoverato e guarito dal cervello ammaccato che hai. I preti di loro stessi gli inculcano queste cose, gli imam, quelli sono i loro preti e gli inculcano queste cose, perché l'Islam non dice mai di ammazzare a nessuno il Corano, sono loro che lo interpretano malassorte. Sono i preti, ma se ci viene inculcano queste cose in capo a questi musulmani. Ah, tu pensi che sia una loro religione quella? No, sono i preti che inculcano la cosa, che religione, oi. Ma ti pare che un prete possa andare a inculcare l'odio nelle persone? A noi ci odiano proprio, specialmente ai cristiani, li odiano proprio in un modo spropositato, questi musulmani. Perché appunto allora ho ragione io, che sono dei selvaggi, non sono umani quelli sono dei selvaggi, perché inculcare nella mente della gente una certa dottrina di comportamento, guarda, è veramente assurdo, veramente. Quando mai l'umanità non deve essere salvaguardata e soprattutto apprezzata? Invece c'è tanta gente che l'umanità non l'apprezza. Ci sono tantissime cose nell'Islam che sono storte. Le donne, per esempio, ne va di rugacolo di niente, proprio non le considerano. Addirittura in Afghanistan lì manca a scuola possono andare le donne, hai capito? Sì, quello già lo so. Non si possono togliere il velo, non si possono mettere un vestito tradizionale come quelli europei, da capo a piedi, fascia d'allongo, come si diceva una volta, come fasciavano i bambini qua appena nati una volta, ti ricordi? Che li fasciavano all'ongo. Oggi invece ci sono i pannolini, ci sono prima di Bugnani, dei classi di Buniani, e lo facciamo a lungo, lo facciamo legato in una maniera, ragazzi, che non si poteva nemmeno muovere. Quando mai un bambino così non stava anche male, anche se era un neonato. Oggi come oggi è tutta un'altra musica, e loro sono così, oggi da adulti sono ancora fasciati a lungo. Senza velo, il babbo e il marito, basta, punto. Le meduse è giusta una cosa simile, e quella ragazza che l'ha presa la polizia perché non aveva il velo e l'hanno ammazzata, da poco, l'altro giorno è successo, in Iran. Già lo so, sì. Oppure, ragazzi, c'è i genitori che la obbligano e la sposano appena che nascono. Tu devi essere, per dire, quando sarai grande, ma grande si intende alle dai di 10 anni, devi sposare il tizio. Ma quando mai? Ma dimmi tu se queste sono cose da sopportare. Non si può. Una persona che tu non hai mai visto, mai conosciuto, te lo devi sposare perché i genitori, quando tu avevi l'età di 9-10 anni, ti avevano promesso chissà a chi, a un disgraziato qualunque, così. lì, o un ricone qualunque, boh, dove è possibile, guarda. Forse c'era qualcuno sotto giù, vedi di farlo entrare. E purtroppo è così. Buonasera. C'è qualcuno? Buonasera, buonasera. Oh, ciao. Allora, riprendi, dai. Se l'ascolto avrei capito di cosa stiamo parlando. Facci capire anche tu le tue idee. Sono retrogradi quei popoli lì, praticamente decidono sulla vita degli altri, ammazzano i figli se non si sposano con chi vogliono loro, cioè sono persone primitive, non riesco a capire, forse ma anche primitivi la pensavano così. E appunto, ricordo che stavo dicendo io, quelli non sono umani, quelli sono dei selvaggi dell'umanità, perché non è possibile, guarda, che uno possa essere promesso all'età di 9-10 anni e magari sei stato promesso, che so io, a un arabo o un ricco che va 50 anni. Ma dimmi tu se queste sono cose giuste da fare, cose impensabili veramente nel mondo moderno e per una logica assurda, secondo me questa è. Vai, Natali. Ma che genitori arrivino a casa a ammazzare una figlia perché non si sposa chi vogliono loro? È una cosa assurda, ammazzare una figlia. Ma ci pensi che un genitore gli dà una protezione assurda ai figli e questi qui li ammazzano? Vedi quella che aveva ammazzato la figlia, si è messa, tutta la famiglia si è messa, fratelli, padri, zii, e l'avevano sotterrata ancora, che poi se ne erano scappati in Pakistan. Dopo tanto tempo, finalmente le hanno dato l'estradizione, sono rientrati in Italia e sicuramente adesso sono arrestati, chissà quant'anni ne danno, perché avevano commesso l'omicidio della figlia, di una figlia o di una parente o nipote che fosse a quest'uomo che ha agito lui, perché a quanto sembra lo zio che l'aveva uccisa, però sempre con l'intesa e col benestare dei familiari. Ma dimmi tu se queste sono cose da accettare, vergogna, disumani proprio. Vai, Natalino. Scusate, mi ero spostato un attimo. Purtroppo è così. Tutti questi matrimoni combinati, una vicina minore, magari l'altro ne hanno muovito, ma io, una non è libera di scegliersi chi vuole come marito. Sì, è proprio vergognoso, vergognoso, nel vero senso della parola. Dimmi tu se questi possono essere sistemi democratici della vita umana. No, assolutamente no, vai già. Loro, la cultura sbagliata. Io, mia figlia, che c'è un'amica che è marocchina praticamente, ma i genitori non lo sanno che è fidanzata con un italiano, se dovessero saperlo, guarda. Appunto, è quello, se dovessero saperlo, guarda, la ammazzerebbero, perché sono così questa gente. Capito? Ma come fa una persona ad ammazzare una figlia o un figlio solo perché magari non vuole sposare quello che l'avevano promesso loro? Ma non è possibile, guarda. È un po' lo stesso discorso di quella bambina di 5 anni che è sparita in quel palazzo dove erano tutti gli abusivi pakistani, eccetera. Ma quella bambina che figlio ha fatto? Boh, non lo so io. Per dirti, è lì c'entra la famiglia sempre, perché secondo me è una questione di interessi, di moneta, senz'altro. E fra di loro si vendono anche i figli, si vendono. Vergognoso. Vai, Natalia. Sì, vergognoso solo, Ma è quella che l'hanno trovata, la polizia stessa l'ha ammazzata a quella ragazza, perché non era vestita in modo islamico. Aiuto, ma cosa era vissuta all'europea, cazzo? L'hanno pigliata, l'hanno cuta la voce, l'hanno uccia, di canto l'hanno cuta. Di Burizzotti, ma è giusto, ti sembra? Ebbene, non è giusto, no, assolutamente no. C'è una vergogna. Ad esempio, io stavo leggendo, io che leggo sempre i giornali sportivi tutti i giorni, stavo leggendo che, ad esempio, prendiamo il caso di Ronaldo, il giocatore del calcio, eccetera, che vive con la famiglia in Arabia Saudita, e a quanto sembra ha difficoltà a poter vivere in quella, in quel posto, perché? Perché i figli e la moglie vivono alla europea, cioè si vestono come tutte le donne europee, si vestono con tanto di eleganza, eccetera. E a quanto sembra, prima l'hanno chiamato, le dà dei 200 milioni all'anno di stipendio, però a quanto sembra riesce a starci, ma prima o poi si sa qualcosa gli sta in mente a questi arabi, non lo so, vai già. È un po' strano, Ebu, è un po' strano. Hanno una cultura che loro chiamano cultura, ma non è cultura, è ignoranza quella lì, secondo me è proprio ignoranza. Le fanno sposare, allora, le fanno sposare un parente che abbia terreni. Praticamente se un cugino o uno zio, cosa diciamo, i terreni li fanno sposare a lui, capito? Potrebbero nascere figli malati, tutto l'altro, un casino. E cosa vuoi? È così, purtroppo. Se c'erano le donne che erano militari americane, no? Quando andavano in questi paesi, se uscivano in borghese, per esempio, dovevano mettersi il velo in segno di rispetto. Se non si mettevano il velo, erano fuori legge per loro. Hai capito? Cosa? Cultura di una vita assurda che fai vivere alle tue donne, ai tuoi bambini, oppure capita, non vuoi che debbano avere più di due figli, se tu hai un terzo figlio magari che so io, femmina, te l'ammazzano, ma proponendo, questo succedeva anche in Cina da poco, sino a poco tempo fa era così, oggi penso che sia cambiato anche lì il sistema comunque, vai da te. In Cina lo facevano perché erano truffi, sono miliardi lì. E quindi lo facevano per quel motivo lì di limitare le nascite. Però si dice rubatemi così, i musulmani, perché sono proprio dei selvaggi, come hai detto tu, sono dei selvaggi. La democrazia non sanno neanche cosa sia loro. E dove picchiano i figli piccoli, col bastone, li ho visti io su internet. A colpi di bastone. Lui cazzo, loro non possono bere alcol, assolutamente. E come ti mai no, che sono sempre imbriachi? No. Lascia perdere, Nastali. Allora, una volta al pronto soccorso, abbiamo portato lo zio di Viviana che si era fatto male con la mazzetta perché c'era questo spuntone di ferro che spuntava dalla terra in campagna e lo faceva inciampare sempre. Ha preso la mazza, stava dando il colpo di mazza, si era data la gamba, lì si è tutta gonfiata, lì si è fatta come anche un palloncino. E l'abbiamo portata al pronto soccorso e lì hanno portato, poi arrivano questi due neri, uno in carrozzina gridando e l'altro fatelo entrare, cioè il dito penzolante, proprio a penzoloni, tenuto solo dalla pelle. E praticamente ha detto aspetta che c'è un caso più urgente del vostro, poi facciamo entrare a voi. No, ho fatto un casino, io qua faccio tutto, è intervenuto anche la guardia giurata e ha minacciato anche la guardia giurata e ha detto che gli spaccava il sedere, capito, detto chiaramente. E la guardia giurata ha detto parla bene, cerca di stare tranquillo perché qua ci sono malati, non è calma questa guardia giurata, no, ci resta due la via con la cavalata. Cioè questo qui ne diceva tutti come questa guardia giurata calma. A un certo punto quello della carrozzella col dito penzoloni si alza e io ero seduto nella sala d'aspetto, come si alza, fa due passi, poi stava accadendo, io sono andato per istinto, l'ho tenuto, cazzo non mi ha vomitato tutto quanto addosso, c'era embriago pratico, allora un bidu, roba di 4 litri di vino, tutto allagato di vino. Non ne possono bere, la loro religione glielo vieta proprio di bere. E quindi qua, siccome noi siamo permissivi, che non ci sono musulmani qua, allora ne approfittano e si imbriagheggiano. Guarda, non me lo voglio ricordare di quel giorno, ma l'avessi fatto andare a tenerlo, cazzo. ma tutto sporcato, ma non male che ci ho venuto le infermiere con un lenzuolo, mi hanno pulito loro, però guarda, avevo la faccia intera, ti puoi immaginare. Mi posso immaginare, sì, Gesù Cristo mio, mi succede, mi ricordo. Qua sono sempre corti e ne fanno di tutti i colori, invece di rispettare la legge dove sono ospiti loro, perché loro qua sono ospiti. Nulla, non gliela futti nulla, della nostra legge non gliela sbatte nulla. E li avrei mandati tutti via, col foglio di via, proprio hanno potuto più entrare in Italia. Purtroppo ci sono e hanno ragione, se tu vai a dirgli qualcosa, hanno ragione loro, si offendono, è capace che ti picchiano anche. Vai, Natale. Allora, radici di Biglia ne dirà radici di Dagami. Io non sono stato mai razzista, però a un certo punto le cose le contratti per forza, che questi sono dei selvaggi. Lo so già, c'è l'alternata perché sto caricando il tablet, se qui c'è il caricabatterie per il tablet, ce l'ho sul comodino, che né più né meno non ho vicino al microfono, per cui è quello il corso, il rumore ho già, ma devo caricarlo il tablet, perché mi occorre più tardi, capito? Ah, pensavo che fosse il malacchino, allora va bene, io te lo sto dicendo perché sentiva sottofondo, non dico fortissimo, ma si sente. Okay. Questo Gianni ne abusa perché esco sempre con due ratti io e mi parla sempre sopra. Ciao, un attimo prima di te ha parlato, prima che di entrare tu ha parlato lui. Mi adesso sto con la fina già e non sentirai più il ronzio. Guarda, hai visto, adesso in questo momento non c'è più il ronzio. Però la rimetto perché devo caricare il tablet, quindi la rimetto e c'è di nuovo il ronzio. Come avrai notato già è così. Sì, è così, tranquillo, sai che così va bene. Sì, ormai conosco a memoria le mie cose, per cui questo qui è un caricabatterie con 1, 2, 3, 4 agganci, praticamente posso caricare il telefonino, il tablet, l'orologio, il social, come si chiama, e poi un altro telefonino ancora. Posso mettere tutte insieme e più anche una luce a funghetto sopra che premo come premere un pulsante e si accende una prima illuminazione, premo il secondo e si accende una seconda illuminazione, cioè dunque più forte, e poi ancora una terza illuminazione, poi da qua si smette e spegne completamente di nuovo. È così, è un funghetto, roba cinese deve essere, ma una cosa da quattro soldi, però molto funzionale, anche perché ha l'alloggio per tenere i telefonini di lato, diciamo, no? di costa, messi di costa nella sua casella e mentre caricano, capito? E a volte la roba cinese va meglio dell'altra. Io ho comprato occhiali dall'ottico, mi si è ridotta subito la rotatura. Ci ho comprati dei cinesi, quelli che sono in metallo dorato, per intenderci, e se mi raggi una roba di 3 o 4 mesi senza rompersi, quello lì appena comprato mi si è rotta la rotatura. Quindi vuol dire che c'è qualche cosa che va bene. Sì, certo che c'è qualcosa che va bene, ma io anch'io ho comprato gli occhiali per leggere da vicino, dall'ottico, mi sembra che l'avevo pagato 40 euro circa, una cosa del genere. Beh, mi sono durato una settimana che mi si è rotta subito una stanghetta e dunque non si poteva più riparare. 2 euro 50 l'uno con la stessa gradazione, uguale, identica a quelle che mi aveva prescritto il dottore, fatte fare appunto dall'oculista, per dirti, no? È uguale, identica, a 3 di gradazione per leggere da vicino, capito? Dai, resta lì. Sono qua, non c'è problema, dai. Signore Benedetto, io mi ho piazzato quelle staffe per tenere il monitor del computer attaccato al muro. E una giubbia sta a due, così lo posso mettere come voglio il monitor. Beh, certo che sì, ma io per quello. così, cioè ce l'aveva mia figlia attaccata nella sua camera, che poi era un ripiano, che poi lo toccavi appena appena in alto, si sganciava e l'abbassavi in verticale appoggiato al muro, e dunque recuperavi lo spazio. Ma poi alla fine si è stancata, non l'ha voluto più. No, dice, me ne scendo giù alla scrivania, alla mia scrivania, che lì lavoro meglio. Perché quello sì, magari la notte, sai, prima di addormentarsi, magari se lo guardava lì in camera. E poi si è stancata e ha voluto togliere. E mi sono rimaste le mensole, che si aprono e si chiudono con il piano. Con il piano saranno di 30-35 centimetri di profondità per una larghezza all'incirca di 60 centimetri. Ed era fissato appunto su queste mensole che si abbassano e si bloccano sia in orizzontale che in verticale, a seconda di come lo vuoi tenere, no? Se vuoi spazio lo metti in orizzontale, se vuoi utilizzare il computer tu lo metti in piano, diciamo. E io ho capito. E questa di tua posso inclinare, sono belle. Le ho messe proprio di lusso tutte e due, perché uno è di mia moglie, sono computer fissi, no? E allora per non avere i monitor in mezzo ai piedi li ho fatti così. Ehi, hai fatto bene. E vabbè, io ce l'ho giù il computer mio, ce l'ho nella sala, però poi ho due tablet, uno e sono tutti e due col telefono, anche posso anche telefonare. Uno è largo, vediamo un po', uno è largo 23 cm, lungo per 15, forse anche 16-17, l'altro invece è intorno ai 30 cm, 30 per 20 di larghezza. Quello addirittura è l'ultimo che è stato comprato, praticamente quello ce l'ho da Natale scorso, anzi no, che da Natale, da aprile, da quando avevo compiuto gli anni, che me l'avevano regalato qui a casa, il tablet è nuovo. 300 euro, mi pare che mi abbia pagato 330, una cosa del genere, un bel tablet veramente, molto, molto importante, ma lo uso poco e niente, preferisco quello più piccolo, perché quello più piccolo me lo posso mettere dentro il borsello, che me lo posso mettere, che ci sta giusto, ci sta, sicché se dovessi averne necessità quando sono fuori di casa, ce l'ho dentro il borsello, capito? Ho capito, stavo sbagliando il microfono. Cosa ti volevo dire? Mia moglie pure ce l'ha, gliel'avevo regalata al compleanno io, ma è Manu, anche con quello si può telefonare, della Samsung, bello come tablet, 350 euro l'avevo pagato, è bellissimo quello di mia moglie. Sì, una cosa così costa, essere preciso non me lo ricordo, ma comunque più di 330 sicuro, o meglio, meno di 330 di sicuro, meno di 330, di più sì, ma di meno no. No, il mio è Lenovo, la marca è Lenovo, poi ne ha due ne ha mia moglie anche di tablet, più ha due telefonini, anch'io ho due telefonini nella giornalina, io vabbè, ho addirittura quello che lo chiamo io la cabina telefonica, il primo di tutti, quello che una volta c'aveva anche l'antennino, ti puoi immaginare, ma quello è un telefonino che ce l'avevo 25 anni fa, per dirlo. Ma oggi come oggi, anche l'ultimo che ho è nuovo, è abbastanza nuovo, è comprato di Natale scorso, me l'avevano regalato qua, me l'avevano regalato e ho messo da parte uno che è sempre della stessa marca, della marca, però leggermente più piccolo, mi sembra che era Samsung, se ricordo bene, di marca. E praticamente l'ho passato a mia moglie, così, ha fatto, tienilo tu, tanto a me me ne basta uno. Però poi ne ho anche di quelli di una volta, di quelli normali, quelli che si aprono e si chiudono, ne ho di tutti, ma ne ho anche addirittura uno per gli anziani, ne ho uno addirittura che me l'avevo preso io, me l'avevo preso, che era di mia madre, quando è deceduta mia madre, me la sono preso io quello lì, quello addirittura in caso di necessità, se lo programmi, quando uno ha necessità, schiaccia quel pulsante e ti sentono dappertutto, tutti i figli, tutti i parenti, eccetera, eccetera, capito? Quello era il telefono degli anziani, così chiamato, Natalino. Sì, perché in caso di bisogno ti chiamava le persone che ti potevano aiutare, io già lo so, sì. E io pure ne ho tre di quelli a tastiera che si possono aprire, ecco, e c'ho sempre questo e ce l'ho un bel po' di tempo adesso, figurati, e non aggiù più pigliati. Infatti così, sempre Gianni, rientrato sì, ma se vede che è ancora il telefono Gianni. Sì, ma è così, no, ma io ne ho in tutto, ne avrò da quando ho iniziato, almeno 10 ce li ho, almeno 10 telefonini ce li ho. Solo che ormai sono messi dentro la scatola tutti insieme col suo caricabatterie e tutto quanto, naturalmente senza la scheda, ma cosa se no cosa posso, me devo caricare tutte le spese di tutti i telefonini, di numeri erano solo due, ma sono integrato nello stesso telefono, che sono tutti e due nello stesso telefono, sono. Poi io ho questo tablet appunto, che anche quello funziona da telefono, ma non ho la scheda lì, se per caso mi dovesse succedere che non funziona il telefono, trovo la scheda, la metto nel tablet e il telefono ce l'ho sempre a portata di mano, non è un problema. Per cui, tanto più che di schede ne ho due del telefonino, che potrei fare una la Iliad nel telefonino e la Vodafone nel tablet, che potrei fare, invece no, li tengo tutti e due nel telefono, così se quando mi consumo una scheda c'è pronta l'altra, cioè non c'è problema, in caso non dovessi accorgermi che sta per scadere la scheda, capito? Io ho capito, anche io ne ho due nel telefono e boh, anzi mi pare che una ne avevo gavata che era di ribocci, mi era via nel rigarata quando mi avevo fatto la posta e poi. Ma ce l'ho avuta anch'io quella delle poste, non mi piaceva perché in certi posti le poste non prendeva in certi posti, no, io ho sempre avuto anche quello delle poste, però ripeto l'ho tenuto 2-3 anni e poi ho cambiato compagnia, ho cambiato e mi sono fatto Iliad, e con Iliad devo dire che il telefono dappertutto, anche se sono sotto il suolo o dentro una galleria o una cosa, prende sempre, a differenza magari alle volte anche Vodafone non prende, e invece Iliad prende sempre, dappertutto veramente, guarda. E infatti ne ho una Iliad e una Vodafone, però quella Vodafone è a scheda a consumo, mentre invece quella Iliad addirittura lì ho tutto, ho internet, ho tutto. Ne ho capito. No, quella delle poste ne l'ho tolta, mi sembra, dal telefono, non l'ho più caricata. C'ho solo quella della Vodafone e Boo. Perché Iliad ce l'avevo anche lo stesso, ma qua non prendeva, qua dentro. Invece uscivi fuori, fondo scala il segnale. Però in ogni Trento non pigliava, gaggia la linea. Ok, sì. Sì, infatti appunto è quello che ti stavo dicendo, in certi posti non prendeva, perché prima ce l'avevo tutti e due Vodafone, ce l'avevo. Precedentemente ancora avevo quello delle poste, lo stesso, in certi posti non prendeva. Infatti quando andavo allo sportello che andava a prendere la pensione mi chiedevano, deve fare la ricarica al telefonino. No, guardi, la ricarica al telefonino non la faccio più, ma l'ultima volta gli avevo detto, perché questo sistema con le poste in certi posti non prende, davvero? No, non prende, in certi altri posti non prende. E allora ho cambiato società e ho preso Iliad. E devo dire che Iliad, tanta gente la criticava, invece Iliad per me è quella che funziona meglio di tutti. Almeno fino a questo momento io mi sono trovato anche in posti dove c'era poco segnale e Iliad prendeva sempre, sempre, sempre, sempre. E invece a me mi ha fatto difetto qua. mi cadeva la linea, non arrivava il segnale della Iliad qua dentro. Però se uscivi fuori dal portone, fondo scala subito. Però in Oghi Trentino mi cadeva la linea. E allora ho lasciato Vodafone, che fino adesso sta andando bene. Vabbè, dipende evidentemente da dove uno si trova. Il ripetitore bisogna che sia sempre a portata ottica, perché se no magari prende il segnale, manca il segnale, non so. Qui vabbè, io mi faccio la finestra e vedo due ripetitori, non so di chi sono, se sono Iliad, se sono Vodafone, poi in una parte, mi affaccio dall'altra parte e vedo un altro ripetitore, quello lì è sulla 131, ce n'è un altro, proprio a livello dei punti, all'altezza dei punti più o meno, c'è un ripetitore lì, poi ce ne sono altri due, dietro il negozio che avevano fatto ultimamente, qui dell'AMD, quelli sono due, uno vicino all'altro, vicino, non proprio attaccati, ma comunque poca distanza l'uno dall'altro, e devo dire che funzionano bene, la verità. E tutti quelli che abitano nella zona hanno sempre vantato Iliad, ora poi dice tante volte che non prende secondo dove si, e invece Iliad prende sempre, no, non lo so. Vabbè, e cosa vuoi ti dire? Io ho smesso sia Iliad che quello delle poste, che non funzionava neanche. E sono dovuto tornare, mio malgrado, alla Vodafone. Ha già pagato, mi pare, 40 euro per rientrare da Vodafone. Immaginate, sono dei ladri quelli della Vodafone. Però qua purtroppo manco la TIM mi prendeva qui dentro. Ho dovuto prendere per forza Vodafone. Sì, diciamo che io avevo un numero Vodafone, e questo numero che avevo facevo la ricarica dopo poco tempo, anche senza usarlo, ma parlo di 10-15 giorni, non c'era più scheda. Me li prendevano loro direttamente così, senza nemmeno usarlo il telefono. Ho chiamato la centrale, l'ha giubbato di volte, l'ha giubbato, beh adesso mi cancello, non vi voglio più sentire. Dopo un po' di tempo invece mi hanno richiamato e mi avevano convinto, mi avevo messo un altro numero. E devo dire che questa volta non me li stanno più toccando i soldi. Capito, mettevo la scheda, 20 euro, in poco tempo lo viene più di là. Perché? Perché loro se li prendevano senza. È proprio da un giorno all'altro, anche 2-3 euro in meno. Perché io controllavo sempre su canale 123, mi pare che sia, no, 414, per sapere quanto è la cifra che ricarica, e anche 2-3 euro ogni pochi giorni, ogni 2-3 giorni mi mancavano. Ma se io non l'ho usato questo telefono, per quale motivo mi devono mancare? L'hai giocato il numero, l'hai giocato quattro imbecillate, l'hai giocato. Così almeno non me li hanno più toccati, guarda. Buonasera. Buonasera anche a lei. Anche a me facevano così, me ne prendevano i soldi. Oggi tu quattro zicchiri e non me ne hanno più toccato. Guarda che è entrato una persona che non ho riconosciuto, la verità. Ti ha detto buonasera, avanti. Addirittura ciao Natalino, ciao Giulio. Me, Tonino, avvai a taggiù compreso che ridù. Mi stavo ascoltando poco fa. No, io sono Vodafone. Allora, Iliad qua non prende nulla perché si aggancia a ponte ripetitore della Wind. Qui Wind 0 non prende. Team Pio Pio, la Vodafone è la più forte in questa zona dove abito io. Quindi, ecco perché tutte le ho provate. Anche la faccio, ne ho provato tante di quelle, ma nulla da fare. Kenya, coso, nulla, l'unica è la Vodafone qua che prende, tutto qua. Andrà bene, giù lo riprendi. Ciao Tony, sì, ancora a me non mi è capitato, la verità. Con Iliad io dappertutto riesco a prendere. Mi sono trovato anche a Portoferro una volta, eravamo lì, ed eravamo una trentina di persone, tutti i parenti eccetera, no? Eravamo fuori in una giornata d'estate, siamo andati in campeggio praticamente, e tutti quanti poi sfoggiando telefonini, io l'ho pagato costa 100 euro, che dato, fammi vedere, oh, ma io non mi ho già pagato 700, e quell'altro, no, 700, ma io non mi ho già pagato di più di 800, e alla fine la giocava di lui, io l'ho già pagato 150 euro, mi telefonate, perché loro non, uno di questi non prendeva, hanno cominciato a fare i numeri e non prendeva nessuno, ha attaccato un euro, coniglia ne prendevo, sono rimasti tutti quanti stupiti, capita con un telefono a 150 euro e pigli il telefonato e noi con un telefonino da 800 euro lo pigliamo, e così era Tony. Ma propagazione c'è parecchia. Niente, e poi questo Wind, la maggior parte sono tutte le straniere, c'è Romania e compagnia cantante. E vabbè, no, io con la Vodafone mi trovo troppo bene, ho tutto limitato, 9,90 al mese. Prima pagavo 20 euro, se no che è successo che un bel giorno carico il telefono, 20 euro, e non mi faceva telefonare. E lì 2 euro di sotto, perché chiamo la Vodafone. Scusi, ma io ho caricato la mia promozione 20 euro, non ho mai dato 22, 22. A voi aumentate voi senza fare niente, io sto cambiando gestore e me ne sto andando via. O mi cambiate immediatamente, se me ne sto andando via. Guarda, c'è una bella promozione per lei, tutto limitato, 9,90. Ok, mi va bene. Ok, dice, gliela regalo io stesso, perché vedo che molti anni con la Vodafone. Tu pensa che io con la Vodafone ero quando si chiamava Omitel, una vita sopra. E quindi, infatti, non mi avete mai regalato niente, beh, già va bene, 9,90. Ti dirò che sono soddisfatto, ho tutto, tutto limitato, chiamate, messaggi, internet, capito? Mi va troppo bene. Sì, sì, sì, sì, Tony. Ovviamente, evidentemente, lì non prende da te, non lo so, la verità, io non l'ho mai provato, ma già mi sono trovato ad esempio a Sorso, o paese Sorso, non sei noi anche, e lì prendevo benissimo l'idea, perlomeno. Mi sono trovato anche da poco, mi sono trovato a Ottieri, mi sono trovato che a Ottieri non prendeva Vodafone, ho fatto il numero con Iliad e prendeva tranquillamente, perché ripeto, io nello stesso telefonino ho due schede, uno Iliad e uno Vodafone. Vodafone non prendeva, proprio silenzio assoluto, mentre invece con Iliad prendeva tranquillamente. Io volevo chiamare a casa e invece che mi consumo un po' la scheda, perché da Vodafone non la uso quasi mai. Non la uso quasi mai per il semplice motivo che quella scheda Vodafone ce l'ho a consumo, la consumo e non ve la dio più. Mentre invece quell'altra ce l'ho fissa, posso stare tutto il giorno telefonando, non si consuma mai, perché lì c'ho anche internet, cioè ho tutto, e pago appena 7,90 euro al mese, tranquillamente, non c'è problema, Tony. Vabbè. Ma comunque, sono tutte buone promozioni, io pagavo troppo 20 euro, poi ho aumentato a 22 e mi ha rotto le scatole, no, me ne esco, sono un'altra migliore, invece me l'ha passato 9,90, va bene. Va bene, Natalino capisce a me, quella questione ne hai ancora? E un paio di scatole ne ho. Ok. Tanto a te te ne danno sempre quella misura, giusto? E boh. Non lo sai come c'è. Intanto l'ho comprato. Zitta. Vabbè, dai, no problem. Già ti avverto se mi mancano. Ok, non c'è problema. Io devo andare a farmi la trelevata, mi sa che vado domani. E me lo ritiro, capito? Me ne metto nel armadietto mio. Anda bene. Ok, un attimino che apro al cane pure che sta maiando. Ripeti giù. Ok, Tony. Sì, sì, sì, è così, Natalia. Dipende anche dalla posizione dove uno si trova alle volte. Però, ad esempio, tanto per darti un'idea, Natalia, c'è mio fratello che ha una sala musica che è sotto Corso Trinità. Infatti si scende lì dal negozio dei mobili che c'è in quella discesa che poi finisce sotto il ponte di Rosello, no? E lì c'è questo magazzino ed è proprio sotto la sede stradale, proprio sotto del coso, infatti c'è anche un po' di umidità in quel posto. Eppure da lì dentro io prendo, mentre invece con Vodafone non prendo, guarda, non prendo assolutamente. Con il telefono da dentro il magazzino, dove fa le prove di musica, eccetera, o Natale. Lo so, qua per esempio esempio, manco la Timmy molte volte non pigliava e mi cadeva la linea. C'avevo anche la Timmy io. Secondo dove no, non pigliano? Se quelli sono gli scherzi dell'elettronica. Purtroppo è così. Vabbè, adesso magari l'avranno anche rinforzato perché hanno cambiato con questo fatto del telefonino, eccetera, eccetera, che si prendono la frequenza della TV, che lo sa, non lo so cosa hanno combinato. Comunque io problemi non ne ho verificato, la verità. Va bene così. Li ho verificati qualche volta in certi posti solo con Vodafone, ma con Iliad non ho ancora verificato nessuna anomalia di trasmissione col telefonino. Va bene, vediamo se Gianni le prende. Gianni, sì. Io ci sono, mi è venuto un colpo di sonno, gioco brumido. Infatti stavo per dirlo, magari si è addormentato, può succedere. Certo, è entrato Tonino, non l'hai sentito Tonino, ma è un attimo che è andato a aprire la porta al cane, che stava abbaiando evidentemente, forse voleva uscire. Oh, non ho sentito, mi sono svegliato presto come chiamato. La stanchezza, ero sdraiato, non gioco brumito. Succede quando uno è stanco, certo, succede così. Stavamo parlando anche di quello poc'anzi, probabilmente un colpo di sonno o un malore a quel bus che era caduto nella scarpata, purtroppo, con tutti quei morti e quei feriti che ci sono stati. E stavamo parlando battendo su questo chiodo, cioè ho avuto un malore o ho avuto un colpo di sonno, poc'anzi con Natalino, prima che entrassi tu. Riprendi già e vedi un po' se rientra Tonino. Quello lì è grave. Quando non guida, chi c'è la ragione? Se sta male chi guida, succedono queste disgrazie. Purtroppo siamo umani e può succedere. Avanti Tonino, buonasera. No, Tonino non riprende. Ripeto una qualità. Mica, e cosa vuoi? E purtroppo è così. Secondo me è stato un malore lì, perché il riposo obbligatorio, gli autisti dei medi pesanti, capito? Perché? Sì. Devono fare la sosta. Più di 4 ore non puoi guidare. Dopo ti devi fermare per forza, perché te lo segna il tachigrafo, capito? E c'è la lampadina, allora devi in mano. Entro 10 minuti, se no ti mette la multa da solo. Non so che funziona così, anche gli autisti di tiro. Quel tipo di patente così non era obbligatorio con 2 autisti, io mi ricordo. Aspetta che inavvertitamente ho girato il potenziometro del microfono, così dovrebbe andare bene, come la prima credo. Inavvertitamente ho girato il potenziometro e l'avevo passato al massimo. Stavo dicendo, perlomeno a riguardo dei camionisti, parlo dei camionisti, una volta non bisognava che ci fossero 2 autisti in una macchina così pesante. Fanno l'estero magari, perché sennò non arrivano mai, ma qua in Italia cosa? Non penso. 2 autisti li mettono quando devono fare percorsi lunghi. E lo fanno per non stancarsi, uno riposa e l'altro guida, poi fa il contrario. No, io sto parlando addirittura di una legge, di una cosa obbligatoria. Non è adesso, è parecchi anni fa. Me lo raccontava a me, già l'hai conosciuto Natali, signor Giovanni Fiori, buonanima, che abitava di fronte alla falegnameria, abitavano, e mi diceva che prima era obbligatorio avere un secondo autista quando tu guidavi una macchina di un certo peso. Ma sto parlando di parecchi anni fa, e dunque era obbligatorio per legge che ci fossero 2 autisti. Per i viaggi internazionali però questo non lo so, io so solo che lui era da Salesu e quando viaggiava allora, perché ha fatto tutta la vita il camionista, lui aveva un dipendente che lo accompagnava nei suoi viaggi giornalieri, perché lui viaggiava molto, cioè faceva Sardegna praticamente, e aveva sempre il sostituto per la guida. Deve essere, non lo so, poi se le leggi sono cambiate, non te lo so dire, vai già. E anche io mi ricordo una cosa del genere, che erano insieme in due. Però non lo so se era per legge o se lo facessero per comodità, per non stancarsi, dai. Ricordo anche io che c'era qualche cosa del genere. Però non mi ricordo se era per l'estero o che cosa. Sì, anche io l'avevo sentito. Prima viaggiavano in due, ma già ricorsa le dita a pagarne due al posto di uno. Eh beh, indubbiamente era un grande sacrificio per l'azienda, eh. Era sempre un grande sacrificio, anche per il privato, perché se tu eri un proprietario della mezza, al mezzo avevi l'ordine, cioè l'obbligo di portare con te un autista che non dovevi pagare, ma tutto era subordinato al tipo di lavoro anche, penso già, non lo so. E dunque se lo facevano vuol dire che lo potevano sostenere il sistema, se no non l'avrebbero fatto. Però poi ho saputo che non era più necessario fare questo sistema, perché infatti oggi i camionisti viaggiano da soli, anzi oggi si legge in un giornale e quante volte l'abbiamo visto sopra allo stesso il giornale aperto, spalancato, andando leggendo sul giornale, vergognoso, vai da salì. Cioè camminando leggendo il giornale, allucinante. E poi guidano mezzi grossi, se si sbattono fanno un danno grosso, non è che una macchinetta, no? E vabbè, succede, e anche queste cose succedono, gente senza gara. Ma queste sono imprudenze assurde, perché non è possibile che un autista di professione debba mettere il giornale sullo stesso. Ragazzi, questo l'abbiamo visto, più di una volta l'abbiamo visto guidando e leggendo, guardando l'occhiata al giornale. Ma secondo me non devi stare attento alla strada, perché stare attento al giornale, vergognoso. Comunque, cosa vuoi che ti dica? È un po' lo stesso discorso anche col microfono in mano, non è che ci siano poi che ci sia poi tanta differenza. Anche quello lo sappiamo, no? Come ha sempre funzionato quel sistema lì già. Vabbè, per il microfono l'ho fatto anch'io, me la culpa, modulavo guidando, però io lo tenevo sul, io c'avevo l'amplificato, lo tenevo sul ginocchio oppure sul sedile a fianco e premevo la portante, quindi a me non mi vedeva nessuno, guidavo tranquillamente, guardavo la strada e parlavo, e dicevano che mi sentivano bene lo stesso. Certo, invece che ti sentivano, già lo grido, come no, altro che, infatti è quello, per quello anch'io l'ho fatto così, non molte volte, però già l'ho fatto anch'io, magari viaggiando, ti chiamavano quando avevo il baracchino nella macchina, prendi il microfono e parlavi lo stesso, però facevo qualche battutina e basta, proprio per mollare subito il microfono e guardare la strada, non sarei. E invece c'è gente, ragazzi, che si incanta proprio, si dimentica dello stesso, della macchina e della strada. Natali, sei rientrato? Sì, sono qua, però vi devo lasciare perché devo cenare, capito? Al limite ci sentiamo magari più tardi o alle prossime, se ci siete ancora già rientro, va. Che sono perché? Le 7.32, 19.32, sì, e fra un po' anch'io devo mollare perché devo farmi la terapia, per cui non posso oltrepassare quell'ora, pertanto ancora qualche minuto e sono costretto anch'io a chiudere. Sì, ma è così già, l'abbiamo fatto un po', sono infrazioni che purtroppo non si devono fare, però in maniera spropositata tante volte li facciamo, siamo al baracchino, siamo e parlando in macchina, no, va bene, qualcuno anche al telefono oggigiorno, io magari al baracchino in macchina non li ho più già da anni, però può capitare anche, ma io devo, quando mi schiudo il telefono lo lascio squillare e trovo il momento giusto per fermarmi, poi eventualmente chiamo io faccio così, non ne prendo il telefono quando sto guidando già. No, io c'ho il Bluetooth e rispondo con Bluetooth, capito? Non lo tocco nemmeno il telefono io. C'ho il Bluetooth e rispondo che parlo, capito? Lì c'è tutta le casse. E anche io ce l'ho il Bluetooth, ce l'ho attaccato al parasole, sempre quello. Ce l'ho, ma alle volte mi dimentico di caricarlo e dunque non mi funziona. Ma in quel caso lì il telefono sta squillando e lo lascio squillare. Quando poi trovo il posto dove potermi fermare, mi fermo, guardo chi era, se era una cosa interessante, prendo e chiamo io. Dunque, così che si deve fare. Anche perché oggi è molto rischioso. Se ti trovano con il telefonino in mano, c'è una bella multa e anche la detrazione di punteggio della patente. Una volta avevano fermato lì a Fredanieta, mi ricordo, avevo l'appuntamento con Sandro, lì al bar di Fredanieta, e il maestro dice, mi hanno appena fatto la multa. E perché? Perché avevo il telefonino in mano. Caspita, è stata una bella fregatura. Dice, oggi è iniziato male la giornata. E le maestro, con Sandro quel giorno, e vabbè, la tua pazienza è stata, e vabbè, dice, me la pago, cosa vuoi fare? E beh, dai, ero grido. Allora una volta abbiamo fermato i carabinieri per dire io con mezzo di lavoro mi chiamavano, devi andare qua, devi andare là, capito? C'è una consegna da fare, eccetera, mi chiamavano al telefono, stavo guidando e praticamente stavo partendo dal parcheggio, non mi avevo ancora affidato le cinture, mi hanno chiamato al cellulare e come faccio la curva mi trovo i carabinieri, mi bloccano senza cintura, col telefono in mano, io adesso a lì la devo rovinare, le devo prendere tutti la patente, questo e quell'altro, e gli ho detto vabbè pazienza, ho sbagliato, però mi hanno chiamato dalla ditta, lì non risponde, si ferma quando la chiamano, e le cinture bisogna mettere, ma stiamo appena partendo, si mettono prima di partire, ho detto vabbè avete ragione, e fate quello che dovete fare, io ho sbagliato, pazienza, ho detto guardi questa volta la lascio andare solo perché lo fa per mestiere, perché se no l'avremmo rovinato. Sì, ma è così, purtroppo le leggi sono leggi e bisogna rispettarle, e ci mancherebbe altro, anche per la nostra sicurezza, sono fatte apposta proprio per la sicurezza della gente, queste leggi, non è che le hanno fatte così per il gusto di farlo, proprio per la sicurezza della gente, certo. Sì, beh, in una macchina io ce l'ho di quelli portatili da attaccare nel parasole della macchina, cioè questo nella C3. Mentre invece nella EcoSport, quella lì no, la Ford EcoSport, quella ce l'ha, con tanto di Bluetooth, con tanto di telecamera, tutto quanto, ed è una meraviglia. Poi quando ti avvicini troppo all'ostacolo ti suona, insomma, quello già è, ma quella è una macchina più moderna, quella appena 4 anni, quella la C3 ce l'ho 14 anni, ce l'ho, anche se è nuova nuova, è nuova nuova e ha appena 43.700 km. In 14 anni, ti puoi immaginare in che condizioni è quella macchina? Sì, anche la mia c'è il tablet, praticamente non tutto è il tablet, non c'è uno di quelli portatili, è incorporato nella macchina e c'è anche le telecamere che suonano e tutto quanto, però in effetti è più comodo, dai, così ti squilla il telefono, nel volante c'hai il pulsante, premi il pulsante e rispondi, boom, basta. Appunto, c'hai il pulsante e rispondi, anche per i messaggi, tutto quanto, attacchi e lo vedi, vabbè, i messaggi non è che devi stare a leggere, ma per dire, no, ma rispondi, per rispondere sì, no, non c'è problema, quando arriva riceve la telefonata, ed è una cosa molto, ma molto utile, soprattutto la telecamera, perché le macchine di oggi, la parte dietro è molto alta, sì che non vedi nemmeno come fai, ma c'è dietro, non è come le macchine di una volta che avevano il muso di dietro, ce l'avevano, né più né meno come quello di davanti, più o meno la stessa altezza, no? Il cofano non era così, ti giravi e vedevi la manovra che dovevi fare, invece oggi no, cioè, le macchine dietro sono alte, vai a fare marcia indietro e lo vedi e ti viene male a vedere, poi c'è anche il poggia a testa alle volte che si mette davanti e non va bene, allora si deve regolare degli specchietti laterali, però non sempre vanno più che bene, mentre invece con le macchine moderne, con la telecamera vedi le strisce dove devi parcheggiare, se sei in linea, se sei spostato, tutto quanto, vedi tutto al 100%, e poi anche molto grande come display, è molto grande, se crede fatto molto bene. Questo nell'EcoSport, Ford EcoSport 1016, 1600 e qualcosa di cilindrata. E ci sia anche il mio, il monitor è grande, ci vede tutto quanto molto bene, puoi regolare la radio, tutto quanto da lì fai, capito? C'è Bluetooth, c'è la radio, c'è il coso, il navigatore, c'è tutto quanto, e tutto da lì regoli, ci sono, puoi regolare gli alti e bassi della radio, le colonnine, se le vuoi più forte davanti e meno dietro, oppure se le vuoi uguali, tutte queste cose qua. Sì, c'è tutto, c'è proprio tutto, tutte queste funzioni ci sono, certo. Navigatore ogni tanto tu lo metti in funzione, quando devi fare un percorso lungo dove stai andando, e ti dà tutte le indicazioni che vuoi, solo che magari in Sardegna, soprattutto quando vai andando verso Cagliari, ogni tanto ti fa andare in un posto che non risulta la cosa. Anche da poco un viaggio che ho fatto mi dava delle informazioni che erano completamente sbagliate, perché c'erano state delle deviazioni dal momento che stanno facendo dei lavori nella strada, solo che non era aggiornato, Google non era aggiornato, e allora ti dava l'informazione che come la prima la strada, però poi già si ricollegava tranquillamente appena che superava magari la deviazione, poi ti dava l'informazione giusta. Io con l'avvicinatore ci bisticcio sempre giù, andando a Umbria mi ha detto di girare a destra, non dovevo girare per niente, sapevo già la strada e sono andato dritto perché devo girare a destra, e tutte cose, capito, che sbagliate magari, no, diciamo a forfè già ti porta sempre nei posti giusti, però quasi qualche volta si sbaglia anche lui, però il mio è molto aggiornato perché te lo dà proprio, ti dà anche i lavori in corso, tutte queste cose qua. Sì, tutto ti dà addirittura il fornitore, che distanza lo trovi, l'autovelox, tutto ti dà, tutto. È moderno, è molto, molto aggiornato, beh, la macchina ha appena 4 anni, anzi nemmeno, perché non è stata fatta nemmeno la revisione dei primi 4 anni, ti puoi immaginare, adesso però non molto, questo mese mi spetta fare la revisione, è per dire, no, è aggiornatissimo, però in certe deviazioni magari si è spostata, che so io, di una curva, due curve, ti ha fatto andare e tu sei dovuto andare perché la segnaletica è stata cambiata e tu sei obbligato a passare dove c'è la segnaletica che hanno messo loro mentre fanno i lavori, però il computer ti aveva detto che di andare magari in sempre nuova direzione, però appena superato quella piccola deviazione poi si aggiornava di nuovo e ti dava gira, svolta a destra, volta a sinistra, secondo di dove andavi, no? A 600, a 700, a 800 metri e così via, è aggiornatissimo già, però già si porta a destinazione poi. A me anche i messaggi me li dà vocale, capito? Quando mi arrivano i messaggi, messaggio, tu premi e ti dà il messaggio vocale, non è che lo devi leggere, te lo dà vocalmente, ti dice Vodafone, propone, eccetera, eccetera, tutti sono fighissimi messaggi per fare pubblicità. Sì, beh sì, anche la mia è così, anche la mia, anzi se stai con la radio accesa, perché stai ascoltando la musica o un notiziario, eccetera, si interrompe in quel momento e entra in funzione la telefonata, no? Quello è aggiornatissimo già, è veramente utile, ma veramente molto, ma molto utile, bello, bello, bello, è anche piacevole ascoltare, la verità, uno domani me la biglietta, ma guarda un po' cosa hanno inventato, per dire, lo so, appena che svolti a destra a 300 metri c'è l'autovelox, anche di quello, ti puoi immaginare? Prima uscita, la rotatura, si dice tutto quanto, si dice tutto. Quando sono andato da Marco, da mio figlio, che quest'anno ha trovato un lavoro stagionale, no? Ha lavorato in un albergo ed era diciamo dopo Urbia, da quella zona lì, però non sapevo esattamente dove fosse, capito? Quindi mi sono messo l'navigatore. Poi lì proprio ci lascio la vita, questo qui mi è uscito dal rifornitore senza guardare, l'ho scartato per un miracolo che non mi ha preso. Perché c'è il pericolo di essere sempre dagli altri. Da una persona, personalmente difficilmente vengono di applicare, a meno che in caso di malore eccetera, è diverso, o perlomeno perché uno è cotto per dire, no? Allora è diverso il discorso. Però in genere i problemi vengono sempre dagli altri, bisogna stare molto ma molto attenti. Però a volte è inevitabile e purtroppo gli incidenti succedono anche, certo. Sì, no, ma io ad esempio se programmo e metto la via e il numero civico addirittura, devo andare per dire in un posto, mi ferma lì, giusto, veramente, e ti dice anche se è arrivato, capito? Sì, io già da prima nell'altra macchina, anche se non ce l'avevo, c'avevo il Garmin, quello grande, e se lo sapevo qualche cosa mettevo l'indirizzo e mi portava giusto dove dovevo andare. Quando arrivava c'era la bandierina rossa e ti diceva arrivato. Sì, infatti anche il tragitto ti spiegava la strada, stai percorrendo la strada, tanto per fare un esempio, 191, o meglio 291, e ti dice quello, stai percorrendo la strada 131, eccetera, eccetera, ti dice anche quello, tutto ti dice, tutto, tra 500 metri svolta a sinistra e trovi la strada tot, numero tot, e ti dice tutto indistintamente. E questo è che voglio richiamare a Torino per vedere se è rientrato, tu dici sì. Oh, non entra più adesso, sicuramente sta cenando. E giù, su progresso, io ho anche il Garmin, ho quello grande, che poi non l'ho più attaccato, che devo attaccare a fare, le macchine ce l'ho, però funziona, e addirittura è quello che c'ho io il Garmin, lo mettevo a caricare nell'alimentatore, visto che c'è la presa CD sigari, lo mettevo a caricare lì e mi facevo fare l'itinerario che dovevo fare, e ti faceva tutto l'itinerario partendo da casa, c'era la macchina che camminava e ti faceva vedere dove dovevi andare, tutto quanto, quindi io sapevo l'itinerario prima di andare, capito? Sì, ce l'ho anche quello, ma l'ho messo da parte, non lo uso mai quello, e da un po' io ho quello, e ti dice tutto, addirittura ti fa vedere il percorso stradale, ti fa vedere tutto, ti fa vedere le rotatorie, tutto quanto, anche quello io ce l'ho, no, ma non lo uso ormai, non lo uso più, cosa, non mi interessa, e ce l'ho conservato, quando si ricarica, proprio come stai dicendo tu, con il coso, con la accendisigari dell'auto, infatti si ricarica con quello, quando devi partire c'è l'attacco, c'è la ventosa, si attacca al vetro, al cruscotto, te l'attacchi, metti il tonto appeso, che c'è l'incastro apposta, no? Metti una presa diretta e tutto il percorso che devi fare, lui è sempre in sottocarica, si ricarica e ti dice tutto quello che vuoi, lo programmi prima e ti porta a destinazione giusto, senza sbagliare di un metro, guarda, veramente perfetto. Va bene, dai, sono le 8, meno 10, meno 12 per l'esattezza, e ti devo lasciare, dai, devo andare a fare la terapia, per cui devo farla sempre a quest'ora, sono anche un pochino in ritardo, comunque, 5-10 minuti in ritardo non è la fine del mondo. Vado e ti devo lasciare, dai, grazie per la chiacchierata, già, salutoni, alle prossime ci sentiamo, con piacere. Ciao Natalino se sei all'ascolto e ciao Tonino se sei all'ascolto. Salutoni a tutti e alle prossime. Ascolto finalino già e poi chiudo, vai. E allora, ciao Giulio, ci sentiamo, dai, alle prossimine. Ciao Natalino, ciao anche a Tonino se c'è. Buona continuazione di serata, dai. Ciao a tutti, a domani. Ok, ciao già, a domani ci sentiamo, ciao.